say that I'm a vegan. Hey, look how me big and me say look how me strong. Some people can't believe that me a vegetarian. If you want a healthy body, check the real Rasta man. Cause Rasta man will tell you about the right nutrition. Me get me calcium, me sodium, me get potassium. Me get me zinc, me get me iron and me magnesium. Instead of yam the fish, me yam what the fish yam. Like the kelp and Irish monster growing at the ocean. Me get me proteins and me minerals. Me get me calories, the vitamins A, the B, the C, the D, the E, the F, the G. Essential fatty acid like the omega 3. Me get me fiber and me carbohydrates in my body. Don't forget your water, drink a few glasses. Bene, rientriamo subito in diretta. Pronto, ci senti? Sì. Pronto, ciao. Allora, ciao. Presentiamo un attimo. Tu sei un compagno catalano e, insomma, che abbiamo appunto chiamato stasera perché volevamo un po' parlare della MAT, di che cos'è questa infrastruttura energetica, insomma, se hai voglia di raccontarci un po' quando è nata, come è stata portata avanti questa cosa, da parte di chi, insomma, raccontaci un po' tutto quello che... Sì, ok. La MAT praticamente sta per muy alta tensione, cioè che vuol dire tensione molto alta, no? Quindi sono linee ancora più potenti dell'alta tensione. Si sta parlando di una potenza di minimo 400.000 volt, e che, cioè, per capirlo praticamente come l'energia che si produce da 6 centrali nucleari. È un progetto europeo che c'è da decenni, e l'opposizione qui in Catalogna c'è da più di 10-15 anni, che è andata avanti, e ora praticamente a un punto che stanno nel pezzo che va dalla Francia fino a Barcellona, stanno cercando di completarlo, per il prossimo anno già utilizzarlo. E nulla, quindi stanno facendo le ultime espropriazioni a quelli che non hanno voluto firmare, e quindi si è cercato di rilanciare un po' l'opposizione alla MAT e a tutto il mondo che ne ha bisogno di un'infrastruttura del genere. E senti, com'è stata, insomma, hai detto che è un percorso durato almeno 10 anni, insomma, come è nato e poi si è sviluppato comunque in questi 10 anni? Cioè, ci sono stati comunque, immagino, anche momenti più di picco, di lotta, è un po', magari sarà un po' scemata di fronte appunto magari alla repressione piuttosto che al continuare di quest'opera? È stata, penso, un po', cioè io non ci sono stato qua quando ho cominciato la lotta, però è stata abbastanza classica, nel senso che nascevano le piattaforme, la gente cercava di fare raccolte di firme, tutte le cose legali, andare a vari corti locali, nazionali, supremi, europei, tutte queste cose. È partita un po' come tra comitati popolari, comunque territoriali, che si sono attivati. Sì, rispetto, sì, più o meno, in alcuni casi cercando di fare le cose con partiti, insomma, cioè abbastanza normale, no? C'è stato però un momento circa 3 anni fa più o meno, che c'è stata un'occupazione di una parte di un bosco dove doveva andare una torre, che ha durato tutto un inverno. Quella era qui, cioè, nella zona vicino a Girona, nei monti, e quella era stata una cosa un po' più potente, dove si era riuscito a farlo un po' più ampio il discorso, cioè fare una critica più ampia, non solo contro quell'infrastruttura, sino contro tutto questo mondo che ha bisogno di infrastrutture del genere, e quindi collegandolo anche con tutte le altre nocività, no? E, è stata un'occupazione che cercava di resistere alla costruzione delle torri, di quella torre lì in preciso, però poi, insomma, cioè, gli sbirri hanno cercato di lasciar stare, di costruire le altre torri, e poi a un certo punto, dopo tutto un inverno, dopo un sacco di mesi che la gente stava lì, insomma, sono arrivati un giorno, che una mattina, che non c'era quasi nessuno, e sono riusciti a smontare abbastanza velocemente tutto il campeggio, a sgomberare. E poi dopo di quello c'è stato tutto un andato un po' in giù, cioè si era sparsa molto la voce, quello sì che era stata molto, molto positivo, e tanta gente è andata a vedere il campeggio, tanto dalle zone lì intorno, come da Barcellona, come dal resto dello Stato e anche da altri stati europei e non. E poi insomma piano piano c'è, come succede al solito in queste lotte, che durante gli anni c'è, la gente comincia a perdere speranze, a ritornare alla vita normale, insomma è difficile stare sempre in stato di allerta, di emergenza. E ora, siccome ora a settembre dovevano partire le ultime espropriazioni, tra varie persone interessate insieme ai vicini, cioè alla gente della zona che ancora si opponeva, abbiamo dato vita a un campeggio contro la mafia e il mondo che la necessita, che è durato circa una settimana a fine agosto. E dopo di quello praticamente cioè durante il campeggio si era deciso di occupare una vecchia villa, di insomma casa villa di campagna, per continuare, per avere un presidio, per avere un punto fisso e per continuare la lotta e cercare di mantenere alta la tensione, insomma. Ma finora quanti chilometri interessano appunto questa MAT? Per quanti chilometri si estende? Quante sono le aree espropriate? E un'altra cosa anche, quali sono le motivazioni che vengono addotte per tutto questo immissione di energia in Spagna, che poi ricordiamo, come abbiamo potuto leggere, tu me lo puoi confermare, che proviene soprattutto da centrali nucleari francesi? Sì, sì. Allora, quanto è stato costruito? È un progetto, come dicevo, che è europeo. Per quanto riguarda la Spagna, il progetto c'erano più o meno per ora, insomma, c'erano, mi sembra, due principali linee che dovevano essere costruite. Una che passa dalla Francia, passando dalla Catalogna, andando in giù, arrivando al sud, e si dice che dovrebbe andare in Africa, cioè nel Nord Africa, quindi per creare delle industrie nel Nord Africa, quindi muovere tutte le industrie europee nel nord dell'Africa, dove la mano d'opera costa meno, dove non ci sono problemi ambientali, tutte queste cose, quindi c'è bisogno di alimentarlo, no? E allo stesso tempo arrivare a un punto nel quale si costruiscono delle centrali nucleari nel nord dell'Africa magari. Infatti già mi sembra che in Marocco già ci sono due o tre firmati o in via di essere firmati di costruzione di centrali nucleari, e a quel punto magari togliere le centrali nucleari dall'Europa e avere insomma tutte le cose inquinanti, cattive, pericolose un po' più lontani. Quella è una linea. Un'altra linea doveva andare, passare dai Paesi Baschi pure e andare verso Portogallo, però, e poi c'è varie connessioni in mezzo, però per ora l'unica che sta andando avanti è questa qua, che per ora sta andando solo avanti fino a diciamo fino a Barcellona, cioè stanno cercando di chiudere queste, e manca l'ultimo pezzo, che è di circa 40 chilometri, che è intorno a Girona, un po' più a nord di Girona e un po' più a sud di Girona. E anche se in questi giorni stavo leggendo qualcosa che stanno, il governo spagnolo sta già dando il via per altre linee, per la costruzione di altre linee, che alcune erano, delle quali erano state fermate per mancanza di fondi o altre ragioni, insomma. Poi quali sono, chi spinge di più? Ovviamente l'industria nucleare, ovviamente la Francia sta in testa dentro quella cosa lì. Infatti dentro la Francia la MAT, c'è un bel po' di MAT che è stata costruita, infatti c'erano dei compagni francesi che erano venuti dal nord, dalla Normandia, per parlare della lotta che c'è stata lì e che non erano riusciti a fermarla, però insomma era stato molto interessante anche come si organizzavano. Poi non so, qualcos'altro mi avevi chiesto? No, in realtà no, mi sembra questa ha risposto alle domande che ti avevo fatto. Adesso te ne posso fare un'altra, se mi permetti. Vai, vai. Non so, sono ignorante da questo punto di vista, quindi chiedo a te: oltre appunto al danno ambientale e al danno sociale per l'esproprio dei territori, queste linee comportano anche dei danni alla salute? Cioè l'energia che passa per queste linee provoca, propagandosi, provoca dei danni alla salute umana o animale comunque? Sì. O no? Sì. Sì, c'è una quantità esagerata di energie. Ora io non sono esperto e cioè sinceramente anche quando leggo un paio di cose già mi bastano per sapere che non va bene. Però c'è quello che dicono le persone interessate che magari cercano di portare avanti un discorso rispetto alla salute specificamente, dicono che provoca cancri, leucemie, a parte poi le nausee, mal di testa, c'è tutta una serie di cose anche un po' più minori, allergie pure, però sì, cioè, è una cosa altamente distruttiva sia per l'ambiente che per gli animali e gli umani, no? E, infatti poi cioè, per avere anche un'idea, cioè non per rispetto verso le loro leggi, però insomma cioè, anche le loro leggi mettono dei limiti dentro i quali non bisogna avere delle case eccetera, che poi non so, penso che non stanno nemmeno rispettando. Però ho sentito parlare per esempio di 400 metri che non ci devono stare spazi abitativi per questioni di salute, insomma non so dettagli, però insomma è abbastanza chiaro che è altamente nocivo tutto ciò, e poi c'è tutto quello che comporta, insomma per noi è stato interessante, per vari di noi, cercare di rilanciare un po' questa lotta allacciandola con altre lotte, cioè cercando di fare un discorso radicale di critica al sistema e a questo mondo capitalista di distruzione e al progresso, no? Cioè, che realmente tutto fa parte della stessa cosa, cioè la MAT in poche parole è un tipo sono delle autopiste elettriche che servono per muovere rapidamente l'energia da una parte all'altra, cioè quindi se manca nel nord della Francia dell'energia, magari in quel momento nel sud d'Italia si sta producendo tanta, via, mandare in su, perché poi è molto difficile, cioè è impossibile penso immagazzinare l'energia elettrica, quindi c'è la bisogno proprio di muoverlo rapidamente da una parte all'altra. E poi questo ovviamente porta con sé altri progetti. Ufficialmente hanno detto che il TAV c'ha bisogno della MAT, poi realmente si è visto che no, perché il TAV qua già funziona in certe zone e non c'è ancora la MAT funzionante, però è chiaro che tutti i parchi eolici hanno bisogno di autostrade elettriche del genere, e quindi una volta che c'è la MAT possono costruire ancora più parchi eolici, ancora più pannelli solari, ancora più centrali nucleari, volendo, tutte queste cose, no? o dighe, e lì in mezzo ci stanno pure delle ditte già conosciute altrove, per esempio Vinci che come sappiamo sta in mezzo a quello dell'aeroporto di Nantes nel nord della Francia, no? Della ZAD. E poi c'è Endesa, c'è la compagnia di energia spagnola che insomma, a parte distruggere qua nello Stato spagnolo, in Sud America sta facendo grossissimi danni. Certo, infatti era proprio la domanda che mi interessava farti, appunto vedere quali fossero i collegamenti appunto tra quella che è la MAT e quelle che sono comunque altre lotte che vengono portate avanti, che poi appunto fanno sempre riferimento a ditte e progetti che insomma devastano i territori un po' in giro per tutta l'Europa e per il mondo. E tra l'altro mi interessava anche un po' capire, appunto, visto che adesso mancano gli ultimi chilometri da quello che ci dicevi che devono essere espropriati, e un po' capire anche la situazione attuale qual è, nel senso come sta andando avanti in questo momento la lotta dopo il campeggio che avete fatto e quali sono anche un po' le prospettive che vi ponete. Allora, fin dall'inizio, cioè il campeggio, quando si è fatto la chiamata per il campeggio, si era fatto una chiamata internazionale, proprio cercando di portare più gente possibile a tutti i posti per fare numero, però anche con un certo livello di discorso, con una certa radicalità della critica, no? E poi cercando proprio di collegare con altre lotte, cioè che è successo, cioè ha funzionato, nel senso che è venuta gente da tante parti d'Europa, da tante parti della Spagna, e ci sono stati tanti scambi interessantissimi rispetto a lotte specifiche e rispetto a metodi anche di lotta, di cose che hanno funzionato, cose che non hanno funzionato, cioè ci sono stati dei dibattiti molto interessanti e delle conclusioni anche tratte da lì. Si è visto subito, sin dall'inizio, che la polizia, insomma, cioè le forze dell'ordine si sono messe subito a pressionare, no? Non hanno gradito, insomma, no, per niente. E poi realmente inizialmente la prima settimana si stava pensando più di fare di raccogliersi lì, cioè di fare un punto di ritrovo, di rilanciare un po', di cercare di fare a livello proprio di discorso dei passi avanti, cioè anche per essere un po' più preparati per la repressione, no? Cioè per avere delle cose chiare a livello di tutta la gente interessata, no? E quindi realmente all'inizio c'erano state solo delle uscite per vedere un po' lo stato delle costruzioni lì, andare alle varie torri, e già quello si mettevano stranervosi e cercavano di identificavano alcune persone, fermavano un botto di persone, sequestravano cose, provocavano. Addirittura c'era uno o più giorni, io mi ricordo un giorno che c'era stato un elicottero che girava e cioè, non lo sentivamo a un certo punto, non sapevamo dove era, a un certo punto, guardando in lontananza, stava praticamente all'altezza degli alberi più in lontananza, e fermo, cioè tipo nell'aria fermo, e cioè, penso che stava filmando e tutto il resto. Quindi cioè, ci hanno messo un bel po' di soldi lì dietro, ora stanno usando parecchio anche gli antisomossa che stanno a Sabadell, che sono l'unico gruppo, c'è un gruppo specialista antisomossa che si muove solo per quel serie, e loro stanno lì quasi sempre cercando di intimidire. Da quando c'è l'occupazione è successa che non si sono resi praticamente conto di niente finché non era già stata fatta, e lì sono impazziti un po', non capivano bene che succedeva e sono innervositi, anche perché l'occupazione sta accanto a due o tre, cioè molto vicino a due posti dove vengono costruite le torri, e sono scesi dalle camionette subito con i fucili delle pallottole di gomma appuntando. Insomma, cioè, da dietro le barricate che si erano fatte sulla strada per andare alla casa occupata, c'era stata comunque l'idea di non cercare la confrontazione perché non era il momento, e si rischiava, insomma, di prenderne tante, no? di essere un po' in una trappola, e quindi si cercava comunque di tranquillizzare la cosa, però mantenendo bene le posizioni, facendoci vedere, e loro praticamente a un certo punto hanno addirittura cominciato a tirare le pietre cercando di provocare per così poter andare a sgomberare con la scusa di sommosse o quello che è. E da quel momento in poi, cioè, ora ormai è più di un mese che c'è l'occupazione, e stanno lì ogni giorno, stanno cercando sia con sbirri proprio che con sicurezza privata, stanno cercando di molestare le persone. E ora il 16 di settembre c'era stato un episodio che una ragazza che era venuta da fuori era andata a prendersi qualcosa da bere a un benzinaio che sta lì vicino, era andata sola, l'hanno fermata e hanno cercato di intimidirla. Lei comunque non si è fatta intimidire, gli rispondeva a tono che ovviamente non gli era piaciuto, e poi quando gli hanno ridato i documenti alla fine, lei ha fatto quindi mi date ora il documento, molte grazie, tipo prendendo un po' per il culo. A quel punto, quando si è piegata per prendere le sue cose, uno sbirro gli ha sputato in testa. Lei si è alzata e gli ha sputato a lui, e lì l'hanno picchiata e l'hanno portata dentro, quindi ha passato la notte dentro. E insomma, cioè, stanno lì sempre, stanno cercando, sono molto preoccupati, cioè, anche se... Vabbè, la situazione quindi è molto, cioè c'è molta tensione e sì. Si sente insomma che c'è una pressione da parte delle forze di polizia che in un qualche modo vorrebbero sgomberare insomma il presidio anche. Sì, sì, sì, cioè, quello che gli preoccupa è anche il collegamento che si sta facendo con la gente locale, che è una zona, cioè, bisogna tenere in mente che è una zona abbastanza ricca. Abbastanza spopolato in certe zone, e quindi insomma, cioè, la gente non è abituata a lottare, è abituata piuttosto a delegare. La comunicazione è stata interrotta perché il vostro credito è... Ok, perfetto, abbiamo finito il credito a questo punto. Cioè, era chiaro che abbiamo finito il credito. E niente, rimettiamo quella canzone di prima e proviamo un attimo a risentire il compagno. Them I wonder when me eat. When me tell them say me ain't no fish nor no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan. A lot of people woulda stopped eat the meat if they had to kill the animal before they coulda eat. Look on the way the animal then get treat. Unsanitary condition where some of them keep it. We're supposed to eat the meat, we woulda have sharp teeth. You wouldn't need a knife and a fork, you know see. You can't eat it raw, you have to cook it complete. And put on vegetable seasoning to make it taste sweet. How when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan man. How when me eat, them I wonder when me eat. When me tell them say me no eat no fish, nah, no meat now. How when me eat, them I wonder when me yum. When me tell them say that I'm a vegan. It's up to you, you can eat what you want to. You can be a vegetarian and be healthy too. There's a lot of choice around, many food around you. Just remember, some more I forget to tell you. The nectarines and tangerines and clementines and guanabana, lychee, oats and ginger, kale, spillarina, mung beans, homemade pasta. Rientriamo un attimo in diretta, ci senti? Sì, sì. Ok, allora ci scusiamo, innanzitutto dicevamo che ci è finito il credito, quindi insomma è un po' brutto dirlo così. Esatto, non abbiamo più purtroppo molto tempo da stare in diretta, quindi okay. So se volevi aggiungere brevemente qualcosa. Pensavo che stavo parlando troppo. No, figurati, siamo noi che siamo dei cialtroni che non ci siamo premuniti di più credito per poterti chiamare. Ok. Nulla, cioè che l'occupazione va avanti, la presenza c'è, nel frattempo ci sono state anche delle azioni di sabotaggio che sono uscite fuori anche sui media di controinformazione, e ovviamente stanno molto preoccupati, come dicevo, stanno preoccupati di questo legame che si sta creando di più tra la gente locale e la gente che sta lì, che è venuta fuori a dare una mano. E, cioè, come sempre, quando si toglie di mezzo la delegazione, cioè, è sempre un problema. Quindi loro stanno lì cercando di pressionare. Nel frattempo l'occupazione va avanti, le camminate vanno avanti, in giro ci sono state azioni di solidarietà, e insomma si invita la gente a venire, se non può venire, a fare quello che può d'altrove. E lascio solo il blog per chi vuole più informazioni, c'è anche informazioni in italiano e in altre lingue, ma non è tanto aggiornato, però insomma, il blog è Torres Más Alta Han Caído, cioè torresmasaltahancaido.spiveblogs.net. Va bene. La casa si chiama Más Castelló. Más Castelló. Perfetto, allora insomma, per chiunque voglia avere maggiori informazioni può collegarsi al vostro blog. Intanto noi ti ringraziamo tantissimo per averci insomma dato tutte queste informazioni e chissà, insomma, magari grazie, ci sentiamo più avanti per maggiori aggiornamenti. Ok. Grazie. Buona serata, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ed eccoci di nuovo tornati in linea. Purtroppo abbiamo adesso anche una presenza maschile in questa trasmissione tutta femminile. Accidenti. Sfregi gratuiti, però. Eh sì, eravamo molto contente, insomma, di essere qua da sole. Abbiamo me ne vado. L'ospite indesiderato, così veniva chiamato. Tra l'altro, che torna e prende subito il mixer, perché solo lui è bravo, mi raccomando. Evidentemente mi ce l'hai mandato voi, comunque. Va bene, adesso per ritornare su argomenti seri, una notizia che viene dall'Indonesia, che leggiamo da Repubblica di oggi. In pratica si tratta di una sentenza dell'alta corte che ha accolto gli esposti diverse tribù raccolte nell'Associazione Nazionale del Popolo Indigeno, che rivendicavano per gli abitanti originari e le comunità locali appunto il diritto di utilizzo delle loro terre. Infatti queste terre erano state private dal governo per la produzione e quindi la deforestazione e la produzione quindi mi confondo con le parole quindi la deforestazione e la coltivazione di palma per l'olio di palma, di cui abbiamo già parlato in altre trasmissioni, e per la carta. Sì. Leggiamo questo articolo che è breve, non è tanto breve, però almeno spiega bene la vicenda. Comunque, che organizzazione, è breve, non è tanto breve. Non è molto breve, era per tranquillizzare gli animi, che era breve, però spiega bene la vicenda, quindi leggiamo. In pratica, l'altra corte ha accolto gli esposti di diverse tribù raccolte associazioni nazionali del popolo indigeno che rivendicavano per gli abitanti originali le comunità tradizionalmente legate alla vita della foresta il diritto del suo utilizzo e sfruttamento. Milioni di ettari di giungla, poco meno di un terzo del totale, hanno perso in un colpo lo status di foresta dello Stato per diventare giungla ancestrale, quindi non più soggetta alle leggi demaniali e ai profitti delle vendite e delle concessioni da parte del governo centrale e di quelli regionali o provinciali, bensì a quelli di capi tribù e di consigli di villaggio. È un affare colossale, considerando che le sole tasse per l'espropriazione, l'esportazione dell'olio delle palme piantate al posto delle foreste pluviali porta alle casse dello Stato oltre 6 miliardi di dollari l'anno, l'11% dell'intero ricavato dell'export. Se troverà applicazione pratica, la sentenza può costituire un precedente storico anche per paesi come l'India, la Malesia e molti altri, e assesta un colpo micidiale all'intero castello di interessi costruito in 40 anni dal governo di Jakarta, che domina da Giava le risorse naturali di tutte le altre 18.000 isole dell'arcipelago. In particolare diventa automaticamente incostituzionale la famigerata legge delle foreste, implementata 10 anni fa dal governo e usata come strumento per espropriare i diritti delle genti indigene sulle loro terre, ovvero i luoghi ereditari in natura dove hanno vissuto gli antenati degli attuali residenti secondo i principi etici, culturali e religiosi delle tribù. Non a caso i giudici hanno sottolineato il fatto che le popolazioni indigene esistevano ben prima della nascita della Repubblica Indonesiana, come testimoniano antichi cimiteri sorgenti dai nomi di antiche lingue, totem degli antenati e perfino tempi induisti e buddisti sopravvissuti all'islamizzazione. Uno degli effetti più macroscopici dello sfruttamento statale su terre spesso considerate sacre e inviolabili, dove vivono specie animali rare come gli oranghi del Borneo e le trighi di Sumatra, sono stati i tagli sistematici degli alberi, l'incerto del sottobosco e delle torbiere. Ogni anno se ne vanno in fumo infatti giganteschi pezzi di polmone verde di questa delicata Amazzonia dell'Est. Al loro posto sono sorte distese a perdita d'occhio di palme da olio, che portano una certa ricchezza ma provocano un aumento dei gas letali per l'effetto serra a causa del mancato rilascio di ossigeno dovuto al taglio degli originari alberi della pioggia, senza contare il surriscaldamento dovuto agli incendi per ripulire dalla giungla primordiale il terreno destinato alle nuove piantagioni, con dense colonne di fumo e spesse coltri di nubi miste a cenere che raggiungono in certe stagioni la Malesia, Singapore e il sud della Thailandia. Secondo Greenpeace, tra il 2009 e il 2011 le palme da olio sono state la principale causa della deforestazione, piazzando l'Indonesia al primo posto nel mondo con metà della produzione globale. Cause a divide. They rub their hands when cultures clash. Division helps them earn their cash. Think about it. How do they get rich? While the people who run things live like shit. Well, it doesn't have to be this way. We could all unite, just unite. One day out of the street, coming on strong, coming on strong, coming on strong, coming. The out of the street, coming on strong, coming on strong. The heart of the street, coming on strong, coming on strong, coming on strong, coming. The heart of the street, coming on strong, coming on strong. Christmas just brings us down. People screw and people frown. But when we stand on common ground, we run the streets of every town. This ruthlessness just brings us down. People screw and people frown. But when we stand on common ground, we run the streets, we run the streets, we run the heart of the street. Coming on strong, coming on strong, coming on strong, coming. The heart of the street, coming on strong, coming on strong. The heart of the street, coming on strong, coming on strong, coming on strong, coming. The heart of the street, coming on strong, coming on strong. Ed eccoci di nuovo tornati in trasmissione. Cambiamo adesso argomento totalmente. Infatti fino adesso ci siamo dedicati al tema dell'ecologia sociale, dell'ecologia sociale no, sicuramente al tema ecologico ce la possiamo fare. Vabbè, c'è un po' di stanchezza nell'aria, poi il lunedì è sempre una giornata particolare. Il problema è che noi li conosciamo pure gli altri giorni e non cambia assolutamente nulla, però vabbè, continua pure. Parliamo di questa ecologia sociale, dai. Non basterebbe questa trasmissione e altre 10 per parlarne, quindi non ne parlerò. Però non ne parleremo. Non parliamone proprio, andiamo avanti, va. Vabbè, adesso abbiamo detto completamente tematica, torniamo a una tematica di cui abbiamo parlato molte volte, quella della vivisezione. Infatti ieri è stato presentato a Milano un opuscolo a cura del coordinamento Fermare Green Hill, che fra poco verrà inserito in linea, penso, dove chiamato Esperimenti su animali al Dipartimento di Farmacologia di Milano. Questo opuscolo nasce a seguito dell'occupazione di aprile, del 20 aprile, appunto all'Istituto di Farmacologia di Milano, in seguito alla quale furono portati fuori dagli stabulari moltissimi roditori, un coniglio e niente, mi sembra questi animali soltanto. E vabbè, in pratica questo opuscolo, oltre a fare una breve cronistoria di questa azione, elenca i dipartimenti e i laboratori dove si pratica vivisezione alla statale di Milano, in quanto oltre appunto agli animali, gli attivisti del coordinamento portarono fuori una serie di anche documenti in merito agli esperimenti. Vengono infatti anche elencati degli esperimenti, e molte volte emerge appunto il trattamento riservato a questi roditori, appunto esclusivamente come merce. Anche con a volte considerata con ironia, di cui appunto la morte viene derisa, nonché vengono elencati i protocolli, i fornitori. Vabbè, questo vi consigliamo di leggerlo, sembra è ben poco rispetto a quello che non si sa, che viene praticato all'interno dei laboratori, però dà un quadro, un piccolo quadro di cos'è la realtà celata dietro il muro di silenzio della vivisezione. Adesso penso torniamo a mettere un altro brano per poi arrivare allo spazio degli appuntamenti. Perfetto, ritorniamo in diretta un attimo con spazi appuntamenti. Vogliamo segnalarvi insomma domani che ci sarà la conferenza di Chris De Rose, esattamente alla Città dell'Altra Economia, alle 8:30 di sera, e Chris De Rose insomma sarà a Roma appunto per fare un'intervista, per raccontare un po' quella che è stata la sua storia da attivista e presidente fondatore dell'organizzazione Last Chance for Animals, ed è stato uno dei primi che si è impegnato negli Stati Uniti all'inizio degli anni 80 appunto per gli animali, e quando in realtà i diritti per gli animali non erano ancora, diciamo, un trend, esatto, chiamiamolo così. E niente, quindi ci saranno una serie, suppongo, di immagini, da quello che insomma sembra apparire sul sito, di video, quindi ripeto, alle 8:30 Città dell'altra economia con la conferenza con Chris De Rose. E poi se vuoi subentrare tu con subentro e dai. Va bene, io sono venuto qui solo per leggere questa cosa praticamente. Sì, e poi abbiamo un comunicato di solidarietà scritto dalla rete Evasioni per Adriano e Gianluca, compagni dei castelli arrestati. Vi vengo a leggere il comunicato. Nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre alcune squadre dei carabinieri del ROS si sono introdotte nelle abitazioni di 4 ragazzi e ragazze dei castelli romani. Sono state portate a compimento perquisizioni e sequestri di oggetti personali e, con l'accusa di associazione a scopo terroristico, sono stati arrestati 2 giovani, Adriano e Gianluca, ai quali vorrebbero ricondurre azioni firmate da diverse sigle. Sono ora in cella di isolamento nelle carceri romane. L'articolo usato questa volta è il 270 bis del codice penale in materia di antiterrorismo, che recita: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico. A solo un mese dalle mobilitazioni previste a Roma e in tutto il paese, la macchina repressiva si è messa in moto, scatenando la solita bufera mediatica della disinformazione e dell'allarmismo preventivo. I 2 ragazzi, che come migliaia di altri abitanti dei castelli romani sono scesi in piazza per mobilitarsi contro la messa a profitto dei territori, potranno essere visti dalle loro famiglie solo tra qualche giorno. In attesa di ulteriori informazioni, invitiamo tutte e tutti ad attivarsi per portare solidarietà agli arrestati e per non farli sentire soli. Terrorista è chi ogni giorno mette in pericolo la salute di migliaia di persone per costruire piccole e grandi opere di profitto, chi sfrutta ogni giorno migliaia di persone sul lavoro quando restano ormai solo poche famiglie ad arrivare alla fine del mese, è chi reprime e uccide nelle strade e nei quartieri restando impunito, chi sta colonizzando e devastando ogni giorno di più i nostri territori in nome del dio denaro. La nostra arma è la solidarietà, tutte e tutti fuori dalle galere, Adriano e Gianluca liberi subito. E vi vengo a dire anche quali sono gli indirizzi per scrivere a questi 2 compagni. Allora, Adriano Antonacci, Regina Celi, via della Lungara 29, e poi Gianluca Iacovacci, Regina Celi, via della Lungara 29. Comunque tutte le informazioni le potete trovare sul sito della rete Evasioni. Va bene, e tra l'altro a questo punto direi, già che stiamo parlando appunto di repressione, ricorderei anche insomma che è stato arrestato nuovamente Francesco di Savona, che è uno insomma degli arrestati per il 15 ottobre, quindi se volete anche insomma informarvi rispetto a quello che è accaduto, trovate le informazioni su Informazione, e se volete scrivergli, Casa Circondariale di Savona, Piazza Monticello 4, 17100 di Savona. Perfetto, abbiamo altro da dire, ragazzi? Sì, che sabato 5 ottobre c'è un benefit per gli arrestati del G8 a Spazio 53, via Mazzola 13. Va bene. A questo punto direi che possiamo salutarci e diamo i nostri indirizzi, contatti e quant'altro. Se volete scriverci, lagazzaladra@inventati.org. Perché con questo tono da hostess dell'aereo? Da speaker. No, sembra più che altro allacciate le cinture, dispositivo di sicurezza in alto, in caso di panico soffiate nel collo. Cioè, insomma, dai, riprovaci. Vai. Riprova. Vai. lagazzaladra@inventati.org. Ancora peggio, bene, lasciamo dai. Perdere. Oppure se volete guardare Però il nostro che, tipo, le statistiche sull'eroina sono aumentate di picco in questo momento. Grazie per la piega sociale che hai voluto creare questa sera, grazie. Se invece volete insomma rimanere aggiornati con il nostro blog, che non lo è, potete vedere su radioposso.noblogs.org. e se siete sopravvissuti anche a questo inno al suicidio, appunto visitate il nostro blog che è aggiornato la settimana scorsa, a due settimane fa, due settimane fa, ma sarà aggiornato la settimana scorsa tra una settimana e quindi niente, rimaniamo sempre due settimane indietro. No, no, dai, ci impegniamo adesso, su via. Va bene, mandiamo un saluto a chi ci ascolta dal nord con tutti i suoi nemici e poi chi vuole intendere intenda, e chi del nord è tra noi. Vabbè, è un po' vaga questa cosa. Vabbè, andiamo oltre. Come al solito, un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati e private della propria libertà personale. Siano esseri umani e non. Ciao!